Doveva esserci la sentenza del mio processo per evasione, sono arrivati come tutte le volte, però molto prima del tempo, i carabinieri a prendermi, non nel luogo di residenza perché non ci sono, nel luogo dove sono adesso nella mia evasione che continua. Sono venuti presto, noi avevamo deciso che sarei andata a sentire la sentenza per conto mio e quindi probabilmente loro hanno captato questa questione, anche perché non sarei comunque andata da sola, e quindi sono arrivati con largo anticipo e mi hanno portata giù, sono andata giù accompagnata come le altre volte. Ma diciamo che la sentenza è stata fulminea, nel senso che alle 9 il punto arriva il giudice, aveva già tutto pronto, i miei avvocati non avevano repliche, c'era persino il sostituto del pubblico ministero. La cosa notevole è che non hanno lasciato entrare il pubblico, mentre la cosa non era a porte chiuse comunque, quindi c'era parecchia gente che erano venuti per sentire la sentenza dalla Valle, ma anche da Torino, qualcuno anche da Milano, e non li hanno fatti entrare, quindi storia di ordinaria repressione. La sentenza comunque l'hanno data e sono 8 mesi senza la condizionale e con il pagamento delle spese processuali. Quello che posso dire è che è una storia che va avanti, non ci sorprende più di tanto. E io naturalmente non ho nessuna intenzione di sottopormi a questa sentenza, sono ancora caricata dei domiciliari per le evasioni precedenti, quindi non ancora per la sentenza, ma ancora sto scontando le misure preventive. Non rispetto queste e non rispetterò neanche la sentenza, anche perché il senso di questa nostra lotta è quello di opporci a misure ingiuste, quello di rivendicare la resistenza. L'hanno capito anche perfettamente loro, perché rispetto a questa questione delle misure preventive nei miei confronti, il pubblico ministero che le aveva chieste e ottenute dal GIP ha chiesto che mi fossero tolte. C'è su notau.info tutta la storia di questa cosa con degli estratti del documento. Ha chiesto che mi fossero tolte le misure preventive non perché non avevo commesso il fatto, ma perché in realtà io questa cosa erano le mie, la mia è un'evasione anomala non fatta per nascondermi ma per sfidare il tribunale, e quindi con una ricaduta mediatica pericolosa, vantaggiosa per il movimento No TAV e pericolosa invece per chi il TAV lo vuole a tutti i costi. È interessante come documento perché è una chiarissima posizione fondata non tanto su questioni di carattere giudiziario, ma è un documento politico chiarissimo che, se ce n'era bisogno, dimostra sempre meglio come il partito trasversale degli affari sia quello per cui lavora anche il tribunale. È sempre stato così nella storia, ma questa volta in modo veramente spudorato, e questo documento lo dimostra. Per cui è una riprova in più che abbiamo ragione, e quindi si va avanti. Ieri, tra l'altro, ad altri solidali che avevano rifiutato le misure che erano state imposte loro, sempre preventive, per un presidio antisfratto, sono stati colpiti per questo motivo, e quindi ci sono 4 compagni che erano ai domiciliari, li hanno messi in carcere, e 2 compagni, altri 2 non erano presenti, quindi non li hanno potuti prendere, 2 compagni che avevano le firme sono state messe ai domiciliari. Quindi, come vedete, la repressione continua. Anche per questo io continuo a dire no, il movimento No TAV con me, perché le lotte poi vanno avanti insieme, e ci sosteniamo, ci difendiamo e però soprattutto facciamo un passo avanti tutti quanti insieme. Per cui forse anche solo per questo io ho deciso di fare, di dar pubblicità a questo documento, anche perché spero possa servire come strumento di difesa e di supporto agli altri compagni. Sì, insomma, ci sta dicendo, no, come questa campagna, la tua campagna, che poi è anche la campagna un po' di tutti noi, che insomma proviamo a dare un contributo anche da lontano dalle nostre città, quando insomma, come per esempio il primo ottobre nell'assemblea alla Sapienza, e vediamo come comunque questo bellissima, che io ricorderò sempre. Per me è stata una ventata di allegria, quel giro in motoretta è una cosa che non dimenticherò mai. Sì, sì, ce lo ricordiamo bene anche noi. Insomma, capire come questo meccanismo entra in crisi, no? Il fatto che giusto ieri si parlava di come quelle misure preventive stessero cadendo, e di come proprio gli stessi PM abbiano riconosciuto anche la valenza e il lavoro con cui che è stato fatto negli ultimi mesi. Oggi invece ci ritroviamo con un nuovo, diciamo, elemento aggressivo da parte della procura e dei giudici. Insomma, noi ci immaginiamo che questa campagna andrà avanti anche nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, e che quindi ti potremo riabbracciare anche a Roma il prima possibile. Sicuramente, io credo che quello che loro temono è l'unione delle lotte e la forza popolare dei tanti che trovando nella lotta non solo uno sbocco alle loro frustrazioni, ma uno strumento concreto di emancipazione, decidono di praticarla. Quindi tutto quello che va contro loro in tal senso, loro cercano di metterlo a tacere, o col carcere, o con le misure preventive, o addirittura come questo tentativo che poi il tribunale comunque non ha accettato, chiedendo di togliere quelle misure che diventano un boomerang a loro danno. Quindi la strada che andiamo avanti e percorriamo è giusta, dobbiamo soltanto resistere e poi, come diciamo sempre noi, se i tribunali ci condannano sarà la storia ad assolverci, per cui siamo determinati più che mai. E questa frase non la dicevi solo tu. Noi ti ringraziamo, ti mandiamo. Infatti, ma noi abbiamo anche la memoria storica delle lotte. Chiaro. E le utilizziamo anche dal punto di vista così delle immagini, che sono belle e danno coraggio. È giusto appropriarsene. Grazie. E ricordarle. Noi ti ringraziamo per questa corrispondenza, ti mandiamo ovviamente un abbraccio solidale e complice qua da Roma, e speriamo tutti noi, a voi tutti, di vederci presto. Forza con le lotte e con una fratellanza che è bella, che è calda, che dà coraggio e che non fa sentire soli. Grazie. Un abbraccio.